Se dovrete sfidare le infestate e arcane coste dei confini della Terra, allora vi occorrerà un capitano, che sarebbe disposto a fare, ognuno di voi. Fareste vela ai confini del mondo, e ben oltre. Sì. Carte sparse sopra il tavolo, disordinate. Cerco una rotta, ma è difficile trovarla senza coordinate. La mia mappa è il cielo e le sue stelle. Per questo temo nuvole, intemperie, troppe serie di coste che sorpasso. Proseguo quel posto, no, non vale neanche un passo. Passo notte e giorno con la testa sopra un foglio. Lo scafo che cavalca un'altra onda, un altro scoglio. Mi incaglio, ma non mi fermo mai. Riparo quelle crepe, poi riparto in fretta verso altri guai. Sai, quando abitui gli occhi a tanta bellezza, questa schifezza lo riesce. Non riesci più a guardarla, mette troppa tristezza. Col vento che mi gela l'anima e rigonfia le mie vele, cerco la mia meta magica, si sradica. Materialismo, possessivismo, solo quando te ne liberi puoi dire di essere libero. Effimero il barlume di allegria, come un fiammifero che brucia lento e dopo il vento te lo porta via. E smetto di tenerlo, e smetto di temerlo. Questo mare immenso in cui a fatica mi destreggio, osservo gabbiano in volo verso spiagge calme, non mi fermo. Punto alla tempesta e so che non vi troverò l'inferno, perché solo la paura mi separa da sempre dal luogo più bello. È un diario di bordo in cui scrivo le rotte, le strade percorse, le mete ormai perse. La penna scorre forte sulle carte ormai gialle, la vela che si gonfia ed il passato alle spalle. È un diario di bordo in cui scrivo le rotte, le strade percorse, le mete ormai perse. La penna scorre forte sulle carte ormai gialle, la vela che si gonfia ed il passato alle spalle. È un diario di bordo in cui scrivo le rotte, le strade percorse, le mete ormai perse. La penna scorre forte sulle carte ormai gialle, la vela che si gonfia ed il passato alle spalle. Mi sono perso fra nebulose di mari, viaggio fra gli astri guidato da venti stellari. O ti impegno ti perdi in balia degli eventi, diventi il contrario di ciò che pensavi. Le vedi le stelle, sorelle del cielo, ci guidano dove c'è il vero sentiero. Colui che non crede non vede il baleno, la strada si apre se hai fede davvero. Chi teme non trova, ma perde se stesso, ai bordi del mondo, con Simba del vento. Il resto viaggiare fa crescere dentro, e tutti partiamo, chi tardi chi presto. Non riesco più a stare, lontano dal mare, le parche han tessuto un filo speciale. Nel diario di bordo ho tolto l'arrivo, perché so che emana Nettuno il mio destino. È un diario di bordo in cui scrivo le rotte, le strade percorse, le mete ormai perse. La penna scorre forte sulle carte ormai gialle, la vela che si gonfia ed il passato alle spalle. È un diario di bordo in cui scrivo le rotte, le strade percorse, le mete ormai perse. La penna scorre forte sulle carte ormai gialle, la vela che si gonfia ed il passato alle spalle. È un diario di bordo in cui scrivo le rotte, le strade percorse, le mete ormai perse. La penna scorre forte sulle carte ormai gialle, la vela che si gonfia ed il passato alle spalle. È un diario di bordo in cui scrivo le rotte, le strade percorse, le mete ormai perse. La penna scorre forte sulle carte ormai gialle, la vela che si gonfia ed il passato alle spalle.